Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. In Italia ci sono ricercatori eccellenti, scienziati che pubblicano su riviste internazionali e che aprono strade nuove all'avanguardia nella ricerca scientifica. Questi ricercatori sono degli eroi perché riescono ad essere competitivi e riescono a creare impiego nella ricerca nel breve, medio e anche nel lungo termine. Quello che vi chiedo, signor Presidente, signor Ministro, è quello di aiutarci. Aiutateci a lavorare bene. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Appuntamento oggi con la prima delle due puntate speciali delle feste a cura di Giovani Talenti, puntata che abbiamo deciso di dedicare interamente alla categoria più colpita dalla fuga dei cervelli o dei talenti, i ricercatori. Avete appena ascoltato la voce di Ilaria Capua, ricercatrice e virologa di fama internazionale al centro, nell'ultimo autunno, di un vero e proprio caso che, mettendo in discussione la sua stessa permanenza in Italia, la portata all'attenzione dei media. Un caso di vera e propria burocrazia kafkiana, ovviamente made in Italy. Le parole che avete appena ascoltato, l'appello che vi era contenuto, hanno rappresentato la risposta di Ilaria Capua al suo paese e ai rappresentanti delle istituzioni, dal palco degli Stati Generali della Cultura. E proseguiamo ora in una puntata che, come vi abbiamo anticipato, è interamente dedicata alla ricerca ed è tutta al femminile, con il racconto della storia di due giovani donne, due casi di grandissimo successo e affermazione professionale all'estero, per ricordare e ricordarci di quanto straordinario capitale umano disponga questo paese, se solo riuscisse a creare le condizioni per farlo fiorire e produrre al meglio. Ricercatrici d'eccellenza è il titolo ideale di questa puntata. Ascoltiamo allora insieme questa intervista a Chiara Daraio, docente ordinario di Ingegneria aeronautica e fisica applicata al prestigioso Caltech di Pasadena. Un anno fa Chiara, insieme a Maurizio Porfiri, è entrata nella top 10 degli scienziati under 40 più promettenti degli Stati Uniti. L'abbiamo incontrata nel settembre 2011. Nome: Chiara. Cognome: Daraio. Età: 33. Città di origine: Ancona. Studi: ingegneria meccanica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? San Diego, in California. Perché? Finire la mia tesi di laurea. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono professore ordinario. Dove? Al California Institute of Technology. Tornerai? In vacanza? Forse. Difficile. La carica del boss Bruce Springsteen per introdurre la storia di Chiara Daraio, che negli Stati Uniti non è nata, ma vi ha trovato, parole sue, opportunità uniche per perseguire i propri interessi e applicarli al meglio. Il mio ambiente di lavoro in California si fonda sul rispetto reciproco, sull'onestà e sulla meritocrazia, un buon modello da esportare. Così Chiara scrivi con estrema chiarezza in un'email a giovanitalenti@radio24.it. Partiamo da qui, dal punto di arrivo della tua storia, perché queste tre caratteristiche sono fondamentali per garantire risultati di qualità, ma soprattutto quanto secondo te sono assenti in Italia? Ma sono fondamentali perché ritengo siano la base per creare un ambiente di lavoro sano e stimolante, soprattutto nel campo accademico, che spinga professori a dare il meglio di sé. Purtroppo sono forse ancora un po' troppo lontani in Italia. In Italia, almeno l'Italia che ho lasciato 11 anni fa e che seguo da distanza, sembra essere più ancora soffocata da clientelismi e favoritismi e un senso di stagnazione pervasa da rassegnazione tra i giovani. Lo viviamo proprio in questi giorni. Chiara, iniziamo dai tuoi studi. Ti iscrivi a Ingegneria Meccanica, Università Politecnica delle Marche. Cosa ti spinge verso questo settore? L'amore per la fisica, mescolato a un certo pragmatismo infuso dalla mia famiglia. Ed è vero che la tua esperienza americana inizia fin dall'ultimo anno di università? Dove ti invia il tuo relatore di tesi? In America sono approdata per completare le ricerche della tesi grazie a una collaborazione tra il mio relatore e un collega americano che lavorava appunto a San Diego presso l'Università della California. E appena arrivata è stato un po' un amore a prima vista col sistema accademico locale. Al tuo rientro ti laurei con lode e menzione d'onore a soli 23 anni e che bilancio dai dell'esperienza universitaria italiana a posteriori? Il bilancio è chiaramente positivo, ho ricevuto un'ottima preparazione di base che mi ha permesso di essere dove sono oggi. Dopodomani me ne andrò da questi lidi. Cercherò asilo negli Stati Uniti e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello. E ad Ancona è già pronto un bastimento. Chiara, per dirla con Gappa, tu immediatamente dopo la laurea ti riporti il tuo cervello negli Stati Uniti e parti proprio da Ancona, non con un bastimento ma con un più moderno aereo. Peccato solo la burocrazia per arrivarci, no? Ai tempi non è stato in effetti facilissimo preparare la domanda di dottorato per trasferirmi in America e soprattutto per recuperare i documenti richiesti per la transizione. Ai tempi l'università di Ancona non era preparata a richieste di documentazione in inglese né a preparare in maniera tempestiva estratti ufficiali di esami. Al di là di questo è bastata una gita all'ambasciata per il visto e un nuovo passaporto. Non ti ha mai sfiorato l'idea di provare a restare in Italia? Non c'era nessuna valida opportunità in Italia, non ho ricevuto offerte né visto porte aperte, ma anche se l'avessi avute le condizioni economiche e lavorative non sarebbero mai state equiparabili a quelle ricevute negli Stati Uniti. Tra l'altro il tuo obiettivo era quello di conseguire un master e un dottorato in scienza dei materiali e ingegneria e nel 2006, proprio nell'ultimo anno di dottorato, ricevi un'offerta dal California Technology Institute per una posizione da assistant professor. Ricordiamo che il Caltech è uno degli atenei più importanti a livello mondiale. Punto primo, questo dimostra la cultura americana di mobilità tra atenei. Non fai la fila vita aspettando che un dio professore ti promuova, ma un po' come un calciatore fuori classe vai nella squadra che ti offre di più, giusto? Sì, il paragone col calcio calza abbastanza pennello, a parte nelle comparazioni delle cifre di ingaggio. Le assunzioni delle università americane sono, soprattutto quelle ai vertici delle graduatorie internazionali, si basano esclusivamente sulla meritocrazia. L'università investe moltissimo in ogni singolo professore e come tale non può permettersi molti errori per rimanere competitivo al vertice. E spiegaci come selezionano, con quali parametri meritocratici? Il processo è abbastanza semplice, si invia un curriculum e un piano di ricerca, i nomi di 5-6 referenze, dopodiché si viene invitati a fare un seminario seguito da un paio di giorni di colloqui e incontri con i professori, poi il comitato locale decide in base ai risultati ottenuti, l'importanza del lavoro e il fit nell'università. Nel giro di 5 anni si snoda tutta la tua carriera, ma il punto qui è un altro, tu entri nel GOTA della ricerca mondiale a 27 anni, quanto hai percepito l'investimento su di te? Penso di aver ricevuto opportunità per aver successo nella ricerca e le ho usate al meglio. Caltech, le varie agenzie di finanziamento che hanno supportato economicamente la mia ricerca negli anni hanno certamente fatto un investimento. Caltech crede e investe nei giovani e questo crea un forte senso di lealtà e di appartenenza verso l'istituto e stimola la creazione di un gruppo coesivo di colleghi. Che bello sentire crede e investe sui giovani, ne sentissimo di più di queste frasi in Italia. Arriviamo al 2011 quando ottieni la promozione a professore ordinario, ora sei docente di ingegneria aeronautica e fisica applicata, 32 anni, allora come si diventa così giovani professori in una delle principali università al mondo? Lavorando tanto con un po' di fortuna. La fortuna è stata quella di trovare collaboratori e studenti eccellenti che hanno permesso di realizzare i progetti importanti in tempi molto brevi. E veniamo ora alla tua scoperta, no? Quella delle lenti acustiche non lineari, che ti ha proiettato tra i primi 10 scienziati under 40 più promettenti d'America secondo la rivista Popular Science. Allora ci racconti cosa avete scoperto e quali applicazioni potrà avere fuori dal laboratorio? Nella mia ricerca ci occupiamo di materiali con proprietà inusuali nel campo dinamico ed acustico per controllare precisamente la propagazione del suono e delle vibrazioni. Le lenti acustiche sono strumenti comunemente usati oggi in varie applicazioni. Noi abbiamo creato un nuovo sistema che si basa sul controllo di onde non lineari. A differenza delle onde acustiche, le onde non lineari hanno ampiezze maggiori, quindi migliorano la risoluzione sul rumore e questo permetterà in futuro, speriamo, di ottenere apparecchiature biomediche più avanzate. Crollo delle pubblicazioni scientifiche nel 2009, ultimi per numero di ricercatori rispetto alla popolazione complessiva, ultimi per investimenti pubblici nella ricerca, penultimi per collaborazioni internazionali, primi fortunatamente per la produttività intellettuale dei nostri ricercatori. Questo è lo stato della ricerca in Italia secondo una tua omonima che si chiama Cinzia Daraio. Concordi? Dall'estero il declino è evidente ed è triste vedere come l'Italia non sappia proprio sfruttare le proprie risorse in questo senso, ma non è tutto perduto perché ci sono ancora delle punte di eccellenza che lavorano e raggiungono ottimi risultati, scoperte innovative, competitive con le migliori università estere. Secondo me la ricerca è una ricchezza che l'Italia dovrebbe riscoprire. E voi siete pronti a fare ponte con i bravi ricercatori di talento in Italia, giovani? Sarebbe bellissimo, bisognerebbe capire come farlo, diciamo, allargato. Per adesso quello che facciamo è quello di creare possibilità per giovani italiani di venire in America e viceversa per aprire i propri orizzonti. Spiegaci in modo molto semplice come un sistema paese può fornire opportunità ai suoi migliori cervelli. Creando opportunità per i giovani e lasciando spazi e facendo investimenti a rischio su punte di eccellenza. La ricerca scientifica è alla base dell'innovazione e l'innovazione è alla base dello sviluppo economico. I privati, come lo Stato, devono capire il valore dell'eccellenza accademica su una base pragmatica e contribuire alla sua crescita e sviluppo. Chiara, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Adesso come adesso, l'Italia dall'estero si vede come la realizzazione di una brutta caricatura di se stessa. Speriamo che questo sia il fondo e che si riesca un po' a costruire, o meglio ricostruire, le cose da capo. L'idea, secondo me, sta proprio nel dare lo spazio ai giovani. Dopo un paio di settimane ti abitui al cibo scadente, al caffè nei bicchieri di carta, al pane che sa di plastica. Ti abitui alle corse per prendere la metro, a tutta questa gente che condivide poche centinaia di metri quadri ogni giorno e che non sa dirsi neanche buonasera. Ti abitui alla pioggia, al sole che sorge così presto. Ti abitui alla mancanza del mare, perché puoi usare i parchi come metadone. Ti abitui ai mezzi che funzionano, alle strade pulite, ai bagni pubblici decenti. Ti abitui alla mancanza delle tapparelle, ti abitui ad essere puntuale, alla mancanza di bidet, ai musei gratuiti, al lavoro gratificante, ad una lingua che non sempre puoi capire, ma che è tua, agli stipendi proporzionati, alle tasse basse, ad un eccellente livello di civiltà. Ti abitui alla nostalgia del sole, della calma delle campagne sterminate, dell'olio buono, del vino del contadino. Ti abitui presto e non per questo ti scordi tutto quello che hai lasciato. Se ripartirei adesso, senza dubbio. E questo splendido video Dubbio Made in Italy chiude la prima parte di Giovani Talenti, un corto che ci ricorda come non sia sempre facile la vita all'estero, come ci si debba guadagnare, oltre le Alpi, ogni singolo metro di carriera, ogni avanzamento sulla scala sociale e professionale. Non sono sempre rose e fiori fuori dall'Italia. La ricompensa però sono carriere più rapide e trasparenti, una società che rispetta regole e merito e la certezza di avere opportunità. Lontani da gerontocrazie, nepotismi e blocchi corporativi di varia natura che frenano e imbrigliano il talento vero. Lasciando spazio alle mediocrità varie di cooptati, figli di o raccomandati. Il problema è che noi siamo in attesa del rinnovo del nostro contratto. Per contratto si stipulava che noi avessimo la possibilità di fare didattica e ricerca in Italia per 3 anni, rinnovabile per altri 3 anni. Quindi il nostro contratto scadrà tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Abbiamo pensato di mobilitarci per avere ragguagli e aggiornamenti sulla possibilità di questo rinnovo, ma il Ministero dell'Istruzione ha molto nicchiato e ha tergiversato e ci sta lasciando in una situazione di limbo accademico, per cui noi non sappiamo che fine faremo. Sono stati investiti 6 milioni di euro per questo programma sotto l'egida del rientro dei cervelli, quindi con una prospettiva di possibile stabilizzazione futura nell'assetto accademico italiano, e in realtà noi ci troviamo in una aporia giuridica. Da dove siete rientrati? Da tutto il mondo. Io torno dall'Inghilterra, dove ho passato 16 anni. Non vi resterà che tornare all'estero, immagino. Non necessariamente, noi stiamo lottando perché ciò non avvenga. E bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa ultima puntata del 2012, la prima di due speciali per le feste natalizie, proseguiamo con il filo conduttore che fa da sfondo a questa mezz'ora insieme, la ricerca d'eccellenza al femminile. Avete appena ascoltato le parole di Silvia Ferrara. Di lei ci siamo occupati a ottobre, quando il suo gruppo di 23 ricercatori, rientrati in Italia grazie a un bando di concorso intitolato al premio Nobel Rita Levi Montalcini, ha denunciato il forte rischio che queste stesse intelligenze rimanessero a piedi, senza uno straccio di contratto o di futuro. Rientrare, insomma, per andarsene di nuovo all'estero. Ma che senso ha? Soprattutto quando è ben presente a tutti che fuori dall'Italia la valorizzazione di un ricercatore è incredibilmente diversa. Come dimostra la storia di Francesca Zagari, ricercatrice e PhD in Svizzera. Abbiamo incontrato Francesca nel novembre di un anno fa. Nome? Francesca. Cognome? Zagari. Età? 31. Città di origine? Reggio Calabria. Studi? Una laurea in biotecnologie farmaceutiche. Anno in cui hai lasciato l'Italia? La prima volta nel 2005 e poi nel 2007. Per andare dove? A Strasburgo in Francia. Perché? Per fare un'esperienza lavorativa all'estero. Quale lavoro svolge attualmente? Un dottorato di ricerca presso una multinazionale farmaceutica. Dove? In Svizzera. Tornerai? Tornerei volentieri se riuscissi ad avere una buona offerta di lavoro. È nata arrivato in Svizzera Robert Miles, autore di questa Voyage Voyage, che ci riporta indietro di 15 anni, ma soprattutto ci proietta oltre i nostri confini per raccontare la storia di Francesca Zagari. Come si fa a chiedere alle persone di tornare in Italia? Chiedi con un misto di disperazione e incredulità, Francesca, a giovanitalenti@radio24.it, aggiungendo: qualche volta ho il senso di colpa per essere scappata dal mio paese, ma poi ripenso alla mia storia, guardo la situazione politico-sociale e penso ai miei amici rimasti. Il senso di colpa passa. Francesca, rimango sempre sbalordito leggendo le vostre lettere, sembrano scritte dai fili di un paese del terzo mondo, ma quanto siamo caduti in basso e perché? Ma io credo che sia perché in Italia da troppo tempo si punta sempre meno sui giovani e sul merito e si cerca di stare a galla piuttosto che di innovare. Partiamo con i tuoi studi. A 18 anni lasci la Calabria per trasferirti a Milano per studiare biotecnologie farmaceutiche. L'ufficio orientamento ti incoraggia, sarà la laurea del futuro. Non hanno specificato però per lavorare all'estero, giusto? No, infatti. Bisogna dire anche che a 18 anni è difficile fare un'analisi obiettiva del mercato del lavoro, quindi sarebbe forse meglio dare una visione più chiara dei reali sbocchi professionali di un corso di laurea e soprattutto una formazione che sia più in linea con le esigenze del mercato. Nel 2004 la laurea, 110 lode, giudizio sintetico sulla qualità dell'insegnamento? Ottima sia dal punto di vista teorico e pratico, anche se però è mancata la collaborazione con il privato che mi avrebbe dato una visione più ampia del mondo del lavoro e delle mie possibilità. Ottenuta la laurea, il tuo primo contratto, ovviamente tante speranze, una borsa di studio annuale per restare all'interno del laboratorio universitario. Questa condizione però la definisci da parcheggiata, perché? Il problema è che l'università italiana, almeno per la mia facoltà, ha troppi pochi contatti con il mondo esterno, con la realtà non accademica, e quindi ci sento un po' come in un mondo a parte. Ti iscrivi al concorso di dottorato, versi anche 50 euro. Ovviamente si sapeva chi sarebbe andato il posto disponibile, non ero io. Ma perché, Francesca? Perché l'immeritocrazia prevale? In realtà io credo che la mancanza di meritocrazia nel nostro paese sia un problema più generale di mancanza di etica e di lungimiranza, perché promuovere sempre chi non ha le competenze corrette non fa altro che creare un po' un circolo vizioso. Nell'ambito poi dei concorsi universitari si aggiunge anche il fatto che c'è una scarsezza di posti e di finanziamenti, che quindi acuisce ancora di più il problema. Fortuna vuole che grazie al progetto Leonardo trovi un semestre in un laboratorio di ricerca a Grenoble, Francia, esperienza bellissima, poi torni a Milano e quale lavoro trovi, ma soprattutto a quali condizioni? Ho avuto il classico CocoPro in una piccola azienda di Milano, classico, dove mi occupavo CocoPro dell'assistenza ai clienti. Viaggiavo quindi spesso e avevo anche uno stipendio che mi costringeva a chiedere ogni tanto aiuto ai miei genitori. Basso, quindi, inferiore alla media europea. Sì. Alla fine siamo nel 2007, stanca della precarietà, delle continue trasferte, dello stipendio minimo, opti per l'unica strada rimasta, l'espatrio. Invii curricula all'estero, cosa succede? In realtà ho risposto banalmente a un annuncio su internet, sono stata subito chiamata per fare una serie di colloqui in cui hanno valutato scrupolosamente le mie competenze ma anche le mie possibilità di crescita nell'azienda, e così sono partita per la Francia. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando. Atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. A Strasburgo ottenni un contratto a tempo indeterminato con una remunerazione doppia rispetto all'Italia, più una serie di agevolazioni assicurative. Mi trovai in un ambiente di lavoro internazionale che ripagava l'impegno e appoggiava la formazione extra aziendale. Insomma, lontano dal mondo precario all'italiana, cantato da Daniele Silvestri. Di cosa ti occupavi esattamente? Assistenza scientifica ai clienti italiani dell'azienda per la quale lavoravo, e poi facevo anche supporto alla rete vendita e al marketing. Ma ti mancava la ricerca, ovviamente. Sì. E non poteva quindi essere un lavoro definitivo, e ottieni a quel punto un colloquio presso una multinazionale farmaceutica in Svizzera e inizia la seconda incredibile esperienza con l'Italia. Allora, concordi con la multinazionale un PhD? Punto primo, come si viene selezionati all'estero? Nel mio caso è stato molto utile il network che mi ero creata lavorando in una realtà internazionale. Cos'è un PhD in azienda? Perché è necessaria la compartecipazione, premettiamolo, di un'università? Fare un PhD in azienda vuol dire avere un progetto di ricerca applicato, e in realtà un dottorato di ricerca è comunque una formazione universitaria post laurea, quindi è necessario sempre essere ammessi in una scuola di dottorato e avere un professore che ti segue. Entri in contatto per amor di patria con due università italiane, una a Milano, l'altra a Roma. Nel primo ateneo la responsabile dell'ufficio dottorato è brutale, ti dice "Statene in Svizzera". Non ti dai però per vinta e trovi nell'altra università un professore disposto ad aiutarti. Ma cosa succede a quel punto? Grazie alla nostra burocrazia, come sono riusciti a bloccare tutto? Fondamentalmente mi hanno chiesto di cambiare il mio contratto con l'azienda che mi paga direttamente lo stipendio, ma volevano piuttosto che l'azienda versasse passasse il budget di 3 anni all'università, la quale poi avrebbe erogato la classica borsa di studio da 1.000 euro al mese. Di conseguenza l'azienda avrebbe dovuto fare un secondo contratto con me per allineare lo stipendio al costo della vita in Svizzera. Soprattutto poi mi è stato detto che una volta che il posto di dottorato era stato così attivato, avrei dovuto comunque partecipare al concorso. Cioè tu avresti partecipato a un concorso, magari vinto da qualcun altro, magari raccomandato per un posto di dottorato, e tu avevi portato in quell'università. Sì. Incredibile. Progetti. Incredibile. Allora, che fai? Ti rivolgi all'École Polytechnique Fédérale, dove non solo trovi un professore disponibile, ma con una CV, una lettera di motivazione e 3 lettere di referenze, siamo ovviamente in Svizzera, ti spalancano le porte. Allora, com'è il concorso svizzero? Più che un concorso è stata una selezione. Quello che fa più male, ascoltando la tua storia, è il disinteresse di questo paese verso i suoi figli migliori. Tu saresti tornata, avresti portato anche dei soldi. Speravo, non dico di avere le porte spalancate, ma nemmeno chiusa a chiave. Francesca, a chi fate paura? Credo che nel nostro paese si è instaurato un sistema chiuso ai giovani al merito, dove si ha paura di investire e di innovare. Solo 6 imprese italiane figurano in classifica tra le prime 100 europee per investimenti in ricerca e sviluppo. Denunci, in Italia neppure esistono le aziende biotech. Se nel pubblico né il privato credono nella ricerca in Italia, che futuro si prospetta per noi? Un futuro statico, in cui il divario che ci separa dagli altri paesi non farà altro che crescere. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Ma la vedo come un paese che ha perso la strada, in ritardo, che investe sempre meno in innovazione, nei giovani, nel merito, e invece si dovrebbero cambiare tutti questi aspetti e anche assorbire dall'estero quello che funziona bene, riadattandolo alla nostra realtà. E rimane basta. Cioè, si sto dicendo che parte, no? E poi non. Ma non manca, non ce la faccio più. L'Italia è il posto da cui oggi forse è più facile aver voglia di andare via, però è anche uno dei posti del mondo, diciamo, per cui è più un peccato voler andare via. L'Italia mi ha costretto ad andarmene e questo non glielo perdonerò mai. Emergency Exit, progetto curato da Brunella Felico. Le voci le avete appena ascoltate di Massimo Troisi, Daniele Silvestri e Diana, giovane veterinaria a Vienna, e lo spunto di riflessione che vi lasciamo in chiusura di trasmissione. Emergency Exit racconta le storie, le vite e le emozioni di giovani italiani che hanno lasciato questo paese in cerca di opportunità e di un futuro migliore. L'Italia mi ha costretto ad andarmene e questo non glielo perdonerò mai, dice Anna. Le sue parole, sulle quali vi invitiamo a riflettere, ci accompagnano verso la fine di questa prima puntata speciale natalizia. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti. O nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Siamo allo Spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di dicembre è: una maggiore e più concreta integrazione università-mondo del lavoro può evitare la fuga dei talenti dall'Italia, favorendo canali sani e meritocratici d'ingresso, con esperienze reali fin da studenti, o serve anche altro? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, per la seconda puntata speciale delle feste di Natale. Un saluto e un grande, grandissimo augurio di buona 2013 da Sergio Nava.